9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 2 di aprile. Ieri mi hanno fatto il primo aprile a me perché mi hanno bruciato l'ennesimo computer, credo a distanza e su ordinazione, ma capita in Italia quando si fa i giornalisti. Ora, di che cosa parliamo oggi? Dei dati che hanno registrato ieri con la pubblicazione sui giornali la fotografia dei redditi degli italiani relativi all'anno prima, e ancora una volta ci confronteremo su come questi dati vengono presentati, su la dichiarazione dei redditi medi che esce dalle 41 milioni di posizione fiscale, su come mai appaiano così basse rispetto a chi invece ha l'impressione che molti italiani ne abbiano i redditi più elevati di quello che si dichiara, su perché al nord e sud, eccetera eccetera eccetera. Ci interrogheremo dunque ancora una volta sulla fotografia dei nostri redditi, chiedendo se sia giusto dividerci, puntando sempre il dito sul vicino naturalmente per dire che è lui che le evade, se non sia una tattica dello Stato nei nostri confronti, e soprattutto se coloro che vengono sospettati, gli autonomi, i commercianti e così via, sono davvero i responsabili di tutti i nostri guai. A tra poco, Lina Generale. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 2 di aprile e innanzitutto, prima di entrare nel tema della trasmissione, delle scuse a chi ci ascolta da parte mia e di tutto lo staff di 9 in punto. Il gatto deve avvisare di troppo in ascolto che questa volta, come può capitare facendo il nostro mestiere, bisogna dirla tutta, e quando si commettono degli errori il giornalista non si deve nascondere dietro un dito, e noi siamo incappati in un errore di cui molto mi devo dolere con voi, chiedendo scusa a ciascuno di voi perché è capitato che, lo avete sentito forse, ricordate, qualche settimana fa noi abbiamo dedicato una puntata di 9 in punto alla vicenda di un commerciante di Gela, Fabrizio Interdici. Ricordate che lo chiamammo, era a Bologna in quel caso in quel giorno perché per una fiera di calzature. La vicenda di Fabrizio Interdici proponeva l'ennesimo episodio attribuito al racket del pizzo, perché più volte, dopo essere stato vittima di intimidazioni, di una vettura, una Smart bruciata, gli avevano per l'ennesima volta bruciato, anzi avevano fatto in questo caso bruciato una macchina sotto casa. Le fiamme erano per caso non arrivate fino all'altezza dell'appartamento dove viveva la sua famiglia, e più volte comunque i suoi negozi erano stati fatti oggetto di episodi di questo tipo. Se non che noi facemmo quella trasmissione, come è buona regola giornalistica, facendola precedere da qualche telefonata in luogo a rappresentanti delle forze dell'ordine per capire un pochino di che cosa si trattava, se era sufficientemente attendibile. Le vicende erano ripetute, aveva più volte denunciato Fabrizio Interdici di non essere preso sul serio, e noi facemmo quella puntata tenendolo a telefono per tutta la durata della puntata e anche chiedendo l'opinione nel suo caso sul responsabile legalità, al responsabile legalità nazionale di Confcommercio, al rappresentante della Confindustria della Regione Sicilia. Come sapete, la Confindustria in Sicilia ha uno statuto nuovo da qualche tempo, in cui proprio in materia di lotta per la legalità ha assunto la linea di arrivare fino all'espulsione delle imprese che pagano il pizzo, e chiamammo un magistrato al quale chiedemmo che cosa si poteva fare di più. Alla fine della trasmissione Fabrizio Interdici ci dice, ci ringraziò molto se ricordate, dicendo che gli avevamo fatto avvertire quella solidarietà la cui assenza lo aveva indotto a dire che era meglio oramai chiudere, e anche a rilasciare una dichiarazione un pochino particolare alla fine della trasmissione che mi lasciò un pochino perplesso, perché disse: ah, ma bisogna ormai ammetterlo, è meglio pagare il pizzo, perché almeno pagando il pizzo c'è più efficienza nella tutela nei tuoi confronti da parte dell'organizzazione malavitosa a cui lo paghi. Se non che ieri noi abbiamo appreso dalle agenzie che questo commerciante di Gela, ne ripeto il nome, Fabrizio Interdici, è stato arrestato dai carabinieri. È stato arrestato dai carabinieri perché gli incendi e quindi gli episodi di cui è stato vittima, lamentava di essere vittima, avevano esattamente lui all'origine. Avevano esattamente lui, perché in questo modo si metteva nelle condizioni di incassare assicurazioni, o almeno Questa è naturalmente l'accusa in base alla quale è stato arrestato dai carabinieri, l'accusa che gli muove procura, che sostiene che gli ultimi due dei quattro attentati subiti in sei mesi in realtà sono stati orditi e fatti compiere dallo stesso Interlici. In questo caso noi non possiamo che scusarci con gli ascoltatori, invitarli a riflettere, come anche facendo telefonate preventive sulla veridicità di quello che naturalmente sostengono i personaggi come questi. In regioni così difficili è possibile incorrere in errori, comunque non avremmo dovuto farli. Resta che la vicenda testimonia di sicuro come il margine, il confine tra legalità e illegalità in alcune aree d'Italia è molto più labile che altrove, e quindi ogni considerazione su questo resta valida. In ogni caso, ovviamente, piena solidarietà ai commercianti e agli imprenditori che in aree come quella, più che altrove in Italia, sono vittime di episodi veri di intimidazione, di episodi veri di richiesta di pizzo. Quindi resta tutto valido quello che abbiamo detto, ci serva però di lezione a noi che spesso riteniamo di fare giornalisti meglio degli altri, per scegliere meglio e valutare meglio i protagonisti e le vicende che proponiamo alla vostra attenzione. Quindi Oscar Giannino si scusa ancora con voi tutti. Ora, il tema del giorno, invece. Il tema del giorno è un tema che ha a che vedere anch'esso con la legalità, ma secondo me in maniera molto diversa e molto meno diretta e molto meno scandalosa. Lo sapete, perché più volte ce ne siamo occupati, di come si sia soliti presentarlo all'attenzione degli italiani. Scusate che è finito esattamente un dito su un pulsante in cui non doveva finire, quindi è saltato per qualche secondo il collegamento radiofonico, scusate. Allora, che cosa è avvenuto? È avvenuto che ieri i giornali hanno pubblicato le dichiarazioni dei redditi relative al 2008, quindi le dichiarazioni dei redditi elaborate e presentate dagli italiani nel 2009, e ne è venuta una fotografia che i giornali hanno pubblicato naturalmente sottotitoli che secondo me rischiano un pochino di essere fraintesi. Il reddito medio degli italiani, si tratta di oltre 41 milioni, quasi 42 milioni oramai di posizioni fiscali, si ferma il reddito medio denunciato sotto i 19.000 euro, con delle caratteristiche sulle quali non mi voglio soffermare troppo all'inizio di questa trasmissione, vedremo di approfondire. Diciamo che la media nel nord-est è di 19.950 più o meno euro, nel nord-ovest è di 21.570, nel centro di 19.800, quindi siamo più o meno, tranne i picchi del nord-ovest, ma abbastanza omogenei nel centro-nord del paese. Poi si scende invece un gradino molto secco rispetto alla media del sud continentale, la media di redditi dichiarati di 15.000 euro, nelle isole di poco superiore 15.433. Quello che vi dico subito, per chi non lo avesse letto, è che i redditi di imprese e da lavoro autonomo relativi al 2008, quelli denunciati nel 2009, sono aumentati del 2,6% rispetto al 2007, e questo aumento dei redditi per i lavoratori autonomi fa fronte invece a una diminuzione dei redditi di impresa, che hanno subito una diminuzione dello 0,5%. Naturalmente i giornali, fine della mia introduzione, pubblicano molto su alcuni dati, puntano molto, scusatemi, su alcuni dati a effetto del tipo che, per esempio, sopra i 100.000 euro è solo lo 0,95% dei contribuenti, cioè poco meno di 400.000, e sono questi a denunciare redditi superiori ai 100.000 euro, e mentre sotto i 35.000 euro sono il 90,4%. Allora, naturalmente sembra da questa presentazione dei dati che gli italiani in realtà, come hanno poi la capienza per quelle tante automobili di cilindrata elevata, come al solito ripetono i giornali, che non fanno pugni rispetto a un numero di contribuenti così poco elevato che dichiarano di avere un reddito sopra i 100.000 euro. E approfondiremo anche oggi per l'ennesima volta questo tema. Lo faremo con il sottoscritto che ricorda a tutti gli ospiti che ha invitato come il lettore di giornale o il radioascoltatore a reddito dipendente, ovviamente parte dal presupposto che a lui le tasse gliele levano dalla busta paga e quindi tende ad arrabbiarsi quando legge queste cose, e ricordo invece ai nostri ospiti che devono sforzarsi di parlare esattamente a lui, ma della realtà di un'Italia che in quei redditi viene fotografata, ma secondo me con un tasso di fedeltà e di rappresentazione di difficoltà concreta per numerose categorie che vengono invece additate tradizionalmente come evasori, molto diversa da quella che viene raccontata. Questo è il mio punto di vista, ve lo dichiaro all'inizio e iniziamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo innanzitutto collegato con noi, e io molto lo ringrazio di questo, Luca Casarini. Buongiorno Casarini. Buongiorno a tutti. Allora, Luca Casarini, lo sapete e lo abbiamo aspettato tante volte, l'abbiamo sentito in trasmissioni, in interviste, eccetera, eccetera. Un attore, un protagonista di vicende politiche di rappresentanza della sinistra antagonista, che per molti anni ha dato il suo contributo in maniera netta, decisa, con un tratto personale molto forte alla sinistra antagonista italiana, e che però oggi abbiamo richiesto di intervenire in trasmissione perché alla luce di tutto quello che ha sempre pensato e che continuerà a pensare, però lui campa anche facendo l'imprenditore, quindi è diventato uno dei tanti italiani che campano lavorando in proprio e quindi si misura con le difficoltà del fisco. E oltre a Luca Casarini abbiamo collegato Mariano Bella, che è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buongiorno Bella. Buongiorno. Allora Casarini, questi dati a che cosa inducono a pensare e a dire? Chi come lei la pensa in un certo modo di come dovrebbe andare la società e contemporaneamente si trova a dover a che fare con il fisco, che non è esattamente una controparte molto comprensibile e poco esigente? Ma innanzitutto credo che una visione, diciamo così, un po' distaccata farebbe pensare che comunque di fronte a questi dati, e quindi a dati anche di evasione fiscale pronunciata sostanzialmente, perché questo rappresentano, vi è una stortura del modello fiscale, perché non si può pensare che sia tutta colpa di 40 milioni di persone che si mettono d'accordo e sostanzialmente per il gusto di farlo evadono tutte le tasse. Il problema è che molto probabilmente il modello fiscale di riferimento è un modello di troppa pressione fiscale in generale. Quando un modello fiscale non funziona, vi sono sempre due aspetti. Uno è l'aspetto ovviamente individuale dell'adesione alle regole condivise, ma dall'altra parte vi è anche la sostanza delle regole. Quindi se una cosa non funziona non può essere solo colpa di tutto un intero paese o di un sistema generale, ma io credo che sia anche perché in questo paese vi è una pressione fiscale abnorme per tutte le categorie, che siano lavoratori dipendenti, che siano lavoratori autonomi di prima o di seconda generazione, perché anche qui poi all'interno di queste nuove tipologie del lavoro, che sono quelle accusate di evasione, bisogna anche distinguere bene, perché sono tipologie di lavoro completamente diverse. Ad esempio io vengo definito un imprenditore, non credo che Schumpeter o nessun classico dell'economia possa definire impresa quella che è fatta da una sola persona, per esempio, cioè nel senso che io sono allo stesso tempo, secondo la definizione, il capitalista che ci investe i soldi, il manager che organizza il lavoro e il dipendente che lo esegue, questa cosa non sta in piedi. Io per esempio faccio il consulente e lavoro quindi per un committente che mi fattura tutto, perché deve scaricare quello che io produco, che gli costo, per cui non ho nessuna possibilità di evasione. Ma lei è un consulente monocommittente oppure no? No, non sono un consulente monocommittente, però alla stessa maniera come tutti lavora per committenze private o pubbliche, certo. Sostanzialmente consulente della comunicazione, per cui è evidente che io non ho nessun tipo di margine di evasione, per esempio, e come me ce ne sono i freelance famosi, cioè tutto il lavoro autonomo di seconda generazione o sostanzialmente i professionisti senza ordini, come vengono definiti, hanno questa tipologia, ma sempre di più con anche la dimensione di sviluppo del terziario avanzato, noi abbiamo anche queste tipologie di lavoro che si stanno affermando, ma che vengono assolutamente, come dire, si fa finta che non esistano, oppure vengono, a me quando mi arriva il bollettino dell'INPS a casa da pagare c'è scritto commercianti, per cui proprio non vengono attribuite le funzioni e le modalità che hanno in realtà questa tipologia di lavori. Ma allo stesso tempo, anche per i lavoratori dipendenti, ma anche per le imprese, quando la pressione fiscale è di questo livello qui, come quello italiano, vi è una risposta, diciamo così, di questo tipo. Chiaro che i lavoratori dipendenti, come diceva lei, e vanno compresi in questo, hanno, come dire, hanno questa cosa per cui le tasse gliele prelevano direttamente. Dopodiché la rappresentazione che danno i giornali non è quella che secondo me che è la realtà, perché se io con un reddito lordo di 40.000 euro pago più del 50% di tasse, tra IRPEF, IRAP, che tra l'altro è contestata, contributi INPS e addizionali regionali eccetera, e alla fine poi però non ho nessun tipo di tutela, non ho nessun tipo di welfare, non ho nessun tipo di, ho una pensione che gli indici, con la gestione separata INPS, gli indici, i coefficienti di trasformazione mi rendono come una minima dopo un percorso di 25-30 anni di contributi. È evidente che insomma da qualche parte uno deve pur tentare di campare, anche se, ripeto, poi è impossibile, perché per esempio su lavori come il mio non è che puoi evadere, non evadi niente, perché tu sei un costo per le aziende o per gli enti, e per cui sei fatturato dall'A alla Z. Ora io ho una considerazione per gli ascoltatori per comprendere meglio, secondo me, ancora la tesi della pressione fiscale eccessiva, che è stato uno degli argomenti insieme alla incomprensibilità e alla farraginosità e alla pervasività anche del nostro ordinamento fiscale, la questione è sempre sulla pressione fiscale, perché c'è una parte degli ascoltatori che immediatamente reagisce dicendo non è vero l'Italia, questi sono argomenti della destra per cui c'è un eccesso di pressione fiscale. Allora io invito tutti coloro che subito iniziano a pensare che stiamo facendo una trasmissione politica, no, che il mio tentativo su questo è di basarmi sempre su analisi di dati e cifre, dichiarandone la provenienza quando non sono di contabilità nazionale. In questo caso, poiché la mia opinione, lo ripeto sempre, è che la stima della pressione fiscale sul PIL fatto dal nostro sistema di contabilità nazionale, come ingloba nel denominatore, cioè il PIL, un 17% di economia in nero, induce me e altri osservatori e studiosi della materia a elaborare di anno in anno la correzione della pressione fiscale al netto di questa aggiunta sul denominatore, cioè sul PIL, di ciò che l'Istat vi comprende, perché le tasse gravano su chi le paga davvero, non su coloro che non le pagano anche. E quindi, in base a questa correzione, per chi volesse approfondire, suggerisco sempre il libro del professor Luca Ricolfi, uscito un mese fa, il titolo è Il Sacco del Nord, saggio sulla giustizia territoriale, Guerini e Associati l'editore, e troverete che c'è un capitolo intitolato Abbiamo il fisco più esoso del mondo, nel quale troverete rielaborati i dati della contabilità nazionale in base a queste correzioni, cioè levandovi la parte inglobata di economia in nero. Ecco, una volta che si fa questo esercizio, in questo caso è fatto sui redditi del 2007, quindi dichiarati nel 2008, di un anno precedente a quelli di cui parliamo oggi, troverete che la nostra pressione fiscale dell'Italia è, nell'ambito della trentina dei paesi OCSE, la terza in assoluto, perché sfiora quasi il 60% subito dopo Danimarca e Svezia. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra pressione fiscale sull'economia regolare è di 7 punti sopra quella della Francia, di 10 punti sopra quella della Spagna, di 15 punti sopra quella della Germania, di 17 punti sopra quella del Regno Unito, di 20 punti superiore a quella dell'Irlanda, di 27 punti sopra quella degli Stati Uniti. Su quest'ultimo dato mi tocca aggiungere, per completezza e correttezza, che sui 27 punti di maggior peso rispetto alla pressione fiscale rappresentata dalle imposte federali negli Stati Uniti, a questi vanno comunque aggiunto poi il peso delle imposte statali e talune municipali, che variano molto all'interno degli Stati Uniti, ma certo non fanno 27 punti, perché arrivano al massimo al 10% in più, quindi comunque siamo nell'ambito dei 16-17 punti di maggior pressione da noi piuttosto che negli Stati Uniti, esattamente come nel Regno Unito. Ma questa distanza di pressione fiscale italiana rispetto agli altri ordinamenti è pressoché siderale, perché voi capite bene che poi tentare di essere competitivi nei confronti di un paese come la Germania, che è il nostro più grande competitor, il primo paese esportatore e manifatturiero d'Europa e il secondo però siamo noi, quindi sono i nostri diretti competitori, quando la pressione fiscale in Germania è di 15 punti inferiore, è come tentare naturalmente di combattere qualcuno con le regole della box sul ring con una mano legata dietro la schiena. Ecco, c'è questo piccolo particolare. Ora l'interruzione pubblicitaria, e poi ci ha raggiunto anche un altro ospite. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, eccoci tornati in studio. Ci stiamo occupando della fotografia fiscale che viene fuori dalle 41 milioni di posizioni fiscali relative al 2008, quindi denunciate nel 2009, pubblicate ieri dai giornali. Alcuni ascoltatori immediatamente hanno mandato sms dicendo: ma come è possibile che ci siano solo poco più di 70.000 italiani che dichiarano un reddito elevato, cioè sopra i 100.000 euro? Io da una parte gli dico, adesso tenteremo di dare una risposta a questa domanda. Dall'altra vi faccio notare che questo meno dell'1% dei contribuenti comunque paga il 18% al totale delle imposte, quindi ragionateci un secondo, meno dell'1% paga il 18%, più del 50% dell'IRPEF raccolta nel 2009 sui redditi del 2008 in tutta Italia, più del 50%, per la precisione il 53%, viene da poco più del 10% dei contribuenti, quelli che dichiarano redditi sopra i 35.000 euro, perché la media nazionale, l'abbiamo visto, è di 18.000 euro. Quindi stiamo anche attenti a questo, naturalmente, perché il più viene da numeri così piccoli. Ma la domanda è: sono davvero così piccoli? Ora ci ha raggiunto, oltre a Mariano Bella, che ancora non abbiamo fatto parlare, anche Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIL di Mestre, che i nostri ascoltatori conoscono benissimo, è stato anche protagonista della campagna elettorale, candidato del centro-sinistra in Veneto. Buongiorno Bortolussi. Buongiorno a voi. Allora, io le chiedo, i dati li conosce, li ha visti, li ha rielaborati, la trappola di questo meno 1% che dichiara i redditi così elevati, la vogliamo rispiegare rispetto alla particolarità di come, per esempio, commercianti autonomi hanno un regime fiscale diverso, per cui vanno inglobati, come non si fa mai in questi dati, anche i loro familiari dentro, a differenza da chi ha un reddito dipendente? Ma guardi, ci sono tante cose da considerare. Molto spesso questi dati, e questi sono ancora provvisori, vengono a distanza di 2-3 mesi di altri dati, a distanza di altri 4-5 mesi. Sembra quasi che questi dati vengano tirati fuori per depistare l'attenzione della gente su quelli che sono i veri problemi. Il gestore. Noi paghiamo più tasse, come diceva, citava Ricolfi. Io preferisco citare me stesso, perché questo aggiornamento della tassazione rispetto a chi non paga è per me del 51, non del 58%, e per anni l'abbiamo fatto, e guardando anche con molta serietà e tenendo conto anche del nero, dai dati è il 51 la vera tassazione che sopportano gli italiani. Ma parlando di tributaria, di pressione tributaria, noi abbiamo sempre 6 punti più della Germania, 24 paga la Germania, 30 circa di pressione tributaria. Ora, passando poi al discorso delle categorie, vede, e arrivo subito al suo 1%, vede, ci sono dal 2008 gli studi di settore, non è che uno possa scappare come vuole, ci sarebbe un'azione culturale da fare, spiegando alla gente che quando purtroppo non viene data o non viene richiesta la ricevuta fiscale, l'artigiano, il commerciante, l'esercente, le tasse non le paga in base alle ricevute che emette, ma le paga in base alla media del suo settore, secondo quanto dice lo Stato, perché gli studi di settore in vigore dal 98 fanno questo. Ora, uno può pagare più o meno, ma quello paga. Se poi andiamo nel particolare a quell'1% circa, è vero che può suscitare attenzione e scandalo se uno guarda quello che vede in giro, le SUV, i motoscafi d'alto bordo, capisci, queste cose qua suscitano l'attenzione. Prima di tutto c'è un'osservazione: lo Stato potrebbe intervenire attraverso i registri di beni mobili, i registri navali, e andare a pescare questi signori che anche sui porticcioli italiani dimostrano una capacità contributiva molto maggiore di quella che esprimono poi nella dichiarazione dei redditi. Su questo niente da dire, ma la rabbia per questo fenomeno non deve accecare, non deve attribuire a colpe che non ci sono. Il nostro gestore, lo Stato italiano, riceve più soldi della Germania, più soldi degli altri paesi e gestisce peggio. In Germania non paghi il pedaggio autostradale, alcuni servizi è vero che in Italia non sono cattivi, ma in Germania sono migliori, mi spiego? E quindi bisognerebbe, primo passo del ragionamento, chiedere conto al nostro gestore di come gestisce i nostri soldi, perché le rendiamo più di quanto ne pagano gli altri paesi. Sull'1% in particolare è vero che la struttura dei redditi, come giustamente citava lei, dice che una minoranza paga la maggior parte, perché vede, ci sono 20 milioni circa che pagano il 49%, e poi ce n'è un altro 51% che paga il resto, da quello che mi risulta, e poi c'è un discorso di una minoranza molto piccola che paga al di sopra dei 100 o dei 200 mila euro. Però guardate che la situazione è molto diversa dalla Germania, ma non è molto diversa per esempio dalla Francia. Sì, in Francia ce ne sono di più che dichiarano, il confronto è difficile perché lì si parla di redditi familiari, ma non è così abissalmente diverso, specie se si confronta il nord dell'Italia col resto di questi paesi, è sempre inferiore l'Italia, ma se si confronta il nord non è così abissalmente diverso. Quindi dobbiamo, per un certo discorso anche culturale, cioè vedere, dichiarare quella che è l'evasione, andare in cerca, ma anche quando l'hai trovata, cosa sacrosanta e giusta, mi spiego, e si stanno scoprendo soprattutto evasori totali, soprattutto perché chi non è totale ha gli studi di settore, può pagare anche qualcosa di meno, ma deve pagare. Vede, questo discorso non è fuorviante, così come quando si vogliono abolire le comunità montane, perché ci sono delle comunità montane a livello del mare. Allora non si può fare di tutta erba un fascio. In Italia c'è una situazione per cui i cittadini pagano più tasse degli altri paesi e molte di più, considerando che nel sud ci sono 4 regioni in mano all'economia criminale, dove di tasse purtroppo anche per loro se ne pagano poche, perché si paga il pizzo magari. Quindi bisogna tenere in conto queste cose se si vuole cambiare cultura in questo paese, altrimenti si parla genericamente di evasione senza tener conto dei dati, e allora si fa di tutta erba un fascio. Oh, io devo dire, a proposito di quello che ha appena detto Bortolussi, che mi trovo molto d'accordo sul fatto che l'unico vero, insomma quello più rilevante, non voglio dire l'unico, ma quello più rilevante scandalo che ogni volta mi colpisce nel ricostruire la geografia, la stratigrafia dell'evasione fiscale, vera o presunta, è quello geografico, non è quello per classi di reddito o per tipologia di attività, come generalmente ci propongono sempre i più dei media, additando autonomi e commercianti. Perché pensate che se si rielaborano i dati calcolando due grandezze, una può essere per esempio il gettito differenziale. Che cos'era il gettito differenziale? La differenza tra il gettito effettivo, quello davvero raccolto, meno il gettito atteso. Oppure se si guarda l'evasione relativa, che cos'è l'evasione relativa? L'evasione relativa è il rapporto tra l'evasione effettiva e l'evasione attesa. Sia l'evasione effettiva che l'evasione attesa sono due grandezze stimate, ovviamente, però ci sono dei coefficienti per stimare. Allora, se noi guardiamo a queste due grandezze, rielaboriamo i dati guardando a queste due grandezze, cioè al gettito differenziale, ripeto, che è il gettito effettivo meno quello atteso, e l'evasione relativa, evasione effettiva su evasione attesa, noi abbiamo che la graduatoria delle regioni italiane, quella sì, mi colpisce molto di più, perché mentre abbiamo in testa tra le regioni i cui contribuenti escono al meglio sia sul gettito differenziale che per l'evasione relativa, quindi sono più fedeli rispetto alle proprie dichiarazioni dei redditi, e queste tre regioni in testa sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, la quarta è il Friuli Venezia Giulia, le regioni di fondo, ma con differenze abissali nei rapporti e dei numeri, sono la Puglia, la Campania, la Sicilia e la Calabria. Ma vi ripeto, tanto per capirci in che ordine di grandezza, mentre la Lombardia ha un rapporto dell'evasione relativa, cioè evasione effettiva sull'evasione attesa, di 0,5 per intenderci, la Calabria ha 2,13, la Sicilia ha 1,9, la Campania 1,7, cioè siamo in un ordine di grandezza di 3-4 volte superiore del fenomeno. Questa è la cosa della la vera geografia differenziale, secondo me, del fisco nel nostro paese, che ci racconta delle aree in cui c'è più economia in nero, in cui c'è più criminalità, ma in cui c'è anche comunque una minor propensione al rispetto dell'ordinamento. Mariano Bella, Confcommercio, dal punto di vista della categoria per cui è direttore dell'ufficio studi, questi ultimi anni sono stati anni in cui il rapporto con il fisco e la considerazione da parte del mondo del lavoro dipendente è cambiato in meglio o in peggio, secondo lei? Beh, gli studi di settore che all'inizio sono stati, destavano qualche perplessità, hanno sortito dei buoni risultati, perché nel corso del tempo il dichiarato medio sugli studi di settore per le piccole e medie imprese è andato crescendo, tant'è che anche l'Istat, su studi un po' datati dal 2000 al 2006, testimonia che complessivamente l'evasione fiscale si è ridotta. Per arrivare al 17% di cui parlava lei, siamo partiti dal 21% dell'anno 2000, quindi stanno funzionando. Del resto poi Bortolussi ha già detto che oggi o uno è evasore totale oppure le imposte le paga. Devo dire che lei ha fatto una domanda alla quale non è stata data risposta e ci provo io. Riguarda il cosiddetto reddito d'impresa e la platea di collaboratori che vi partecipano. Molto spesso questi dati destano scandalo, perché alla fine poi i giornali scrivono: un bar guadagna meno di un lavoratore dipendente, di un pensionato. Purtroppo questi dati non dicono affatto che un bar o una piccola impresa guadagna meno di qualcun altro, semplicemente perché questi dati forniscono la distribuzione dei redditi, non la distribuzione dei redditieri, cioè non c'è la dichiarazione del bar dentro questi dati, ma c'è la dichiarazione di tutti i soggetti che in quel bar lavorano. Allora, per capire un po' come stanno le cose, bisognerebbe considerare che il reddito che qui viene chiamato reddito da impresa è il reddito che rimane all'imprenditore dopo che ha pagato gli stipendi dei collaboratori. Quindi, per capire più o meno quanto guadagna un bar o quanto guadagna una piccola impresa qui dentro, da questi dati, bisognerebbe sommare il reddito dell'imprenditore, diciamo, del soggetto titolare della piccola o micro impresa, più il reddito dei collaboratori che vi hanno partecipato, e quindi emerge che non ci sono dei problemi drammatici da questo punto di vista. Certo, non nascondiamo, io spero di essere stato chiaro su questo punto, non nascondiamo che l'evasione fiscale esiste, e la cosa drammatica, lo diceva Casanin all'inizio in maniera implicita, la cosa drammatica è che è un fatto estremamente diffuso, perché se 250 miliardi di prodotto vengono nascosti al fisco, matematicamente questi non si possono attribuire a una categoria, ma purtroppo vanno attribuite a tutte. Prendiamo il lavoro dipendente. Il lavoratore dipendente. Sono molto d'accordo, perché si tende a dimenticare che anche moltissimi lavoratori dipendenti, e io non li critico in questo, ripeto, insomma, i doppi lavori, eccetera, eccetera. Esatto, è tutto il reddito tolto al fisco, anche su, che ne so, il povero pensionato che affitta 4 appartamenti, gli studenti fuori sede, non paga le imposte, li affitta in nero, e purtroppo anche quella è evasione. Un'ultima cosa sulla distribuzione dell'evasione in termini geografici. Certo, la compliance fiscale, la propensione a pagare correttamente le imposte è più ridotta al sud, però noi abbiamo fatto degli studi abbastanza precisi sul peso della criminalità, della contraffazione e dell'abusivismo sulle piccole e piccolissime imprese per area geografica. Beh, emerge che abbiamo questa imposta illegale, occulta, molto grave, che pesa per il 4, 5% sul centro-nord e per l'8% sul sud. Quindi, in qualche modo, se vogliamo considerare tutti gli aspetti della vita economica di un'impresa, dobbiamo considerare che l'imposta occulta, o meglio occulta, l'imposta illegale che le imprese del sud pagano alla criminalità è più che doppia rispetto al valore aggiunto prodotto rispetto alle imprese del centro-nord. Questo è un aspetto grave e credo che prima di parlare di riforma fiscale o di un futuro diverso del fisco nel nostro paese, bisogna rimuovere gli aspetti drammatici che ammorbano il contesto economico, e cioè il ripristino della legalità è assolutamente necessario. Tra l'altro, i confronti tra Italia e Germania, Italia e Francia, anche sulla pressione fiscale, andrebbero fatti nell'ambito del contesto istituzionale in cui si muovono le imprese. Se in Francia il tasso di criminalità è un quarto o un quinto rispetto a quello dell'Italia, purtroppo la pressione fiscale in qualche modo corregge endogenamente queste differenze. Nonché, naturalmente, bisogna ricordare che cosa in cambio lo Stato dà di quello che dall'altra parte chiede in meno, offrendo servizi più efficienti, in minor tempo per le pratiche d'impresa, eccetera, eccetera. Faccio notare che, oltretutto, ora che siamo alle prese con ennesimi versamenti per gli anni successivi, il fisco sull'IRPEF non ci ha dato praticamente nulla che in qualche maniera rispecchi le difficoltà della crisi, nel senso che da questo punto di vista le aliquote, scaglioni eccetera eccetera sono rimaste quelle approvate dal secondo governo Prodi in correzione di Tremonti. E vi dirò, prima della pausa dedicata all'informazione stradale, perché poi da questo con Casarini voglio rientrare, hai molti ascoltatori che dicono sì, però qual è il succo? Tanto noi di tasse ne dobbiamo pagare ancora di più. Scusate, la mia opinione netta è che tutte queste riflessioni, abbiamo cominciato con Casarini, gli autonomi, i commercianti, eccetera, eccetera, qui nessuno nasconde che c'è un problema di evasione in Italia. Io però voglio dire netto a chi rappresenta il centrodestra, hanno appena avuto conferma alle elezioni, e al ministro Giulio Tremonti, che mi onoro di conoscere e di stimare, che l'idea di una riforma fiscale nell'ambito del federalismo che si proponga esplicitamente l'invarianza del gettito, dicendo che quindi noi non possiamo toccare le aliquote marginali sui redditi d'impresa e delle persone fisiche perché abbiamo il problema del debito pubblico, significa ingannare gli italiani. Perché una compliance fiscale più elevata, cioè una minor convenienza all'evasione fiscale, viene in un solo modo, abbattendole drasticamente le aliquote, dandosi un periodo intermedio di applicazione che non faccia saltare il bilancio pubblico, e con meno risorse richieste poi alla fine, come gli altri paesi europei, imparare a spendere meglio e a fare meno inefficienze pubbliche. Ma la vera lotta all'evasione si fa rendendo più conveniente l'adesione spontanea all'ordinamento, abbattendo le aliquote marginali che, finché saranno così elevate, producono questo disastro che stiamo fotografando. Però questa è la mia opinione, anche se io penso che il popolo che vota centrodestra questo dovrebbe pretendere, e non sentirsi dire invece che le aliquote marginali non si tocca perché c'è il debito pubblico, perché questa, a mia opinione, è una balla. Le informazioni sulla circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della fotografia dell'Italia che esce dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2008 presentata nel 2009. Ieri avete visto pubblicati i dati di anticipazione. Una domanda per Casarini: qual è la differenza? Ci chiedono molte sms anche di consulenti che, come lei, fanno presente di aver perso clienti quest'anno, naturalmente di essere scoperti in questo, aver dovuto pagare molte tasse e in più dovendo pensare a se stessi, quindi vasta solidarietà nei suoi confronti da parte dei colleghi. Ma la domanda è, ci chiedono molti, qual è la vera differenza per Casarini, lo chiedono anche a Bortolussi, tra destra e sinistra di fronte a come mettere le mani nel sistema fiscale così come oggi, di cui abbiamo parlato? Ma guardi, vi sono secondo me differenze, diciamo così, di tipo etico. Io credo che sia, per esempio, una cosa intollerabile, ad esempio sugli studi di settore, sia intollerabile impostare un rapporto con lo Stato e quindi con un gestore, appunto, pubblico, a partire dal fatto che io devo dimostrare di essere innocente. Questo lo penso in ogni caso, diciamo così, su qualsiasi cosa, ma gli studi di settore dicono questo sostanzialmente, cioè trovano poi che funzionino o non funzionano, è tutto in rapporto, appunto, al tipo di relazione che si produce, una relazione di terrore, ovvio, fa funzionare benissimo tutto, ma questa idea, questo principio per cui un contribuente è un evasore e poi deve dimostrare di non esserlo, È una cosa pazzesca, perché qui stiamo parlando di gente che comunque lavora, che produce, che appunto... È l'inquisizione. È un meccanismo italiano che è costruito da una realtà del lavoro, che è una realtà del lavoro fatta di piccole e piccolissime imprese, fatta di partite IVA. Ma perché secondo lei così... La realtà del lavoro contemporanea in Italia. Perché così spesso, secondo lei, però, la sinistra si trova a inneggiare a quel genere di rapporto inquisitorio? Perché io credo che la sinistra, che naturalmente per me è sempre stata anche un avversario dal punto di vista culturale, cioè io sono stato dentro e sono dentro un pensiero che comunque è sempre stato osteggiato dalla sinistra ufficiale. La sinistra vede nella grande triangolazione, cioè Confindustria, grande sindacato e governo centrale, vede la sua ragione di esistere, perché ha sempre impostato così la cosiddetta governance e quindi il suo ruolo. E questa cosa la si vede poi dai risultati elettorali, si sta sgretolando perché non è più così, però continuerà ad essere così finché c'è una culturalmente questo tipo di impostazione. Chiaramente dire invece che l'Italia è fatta di piccole imprese, di persone che lavorano a partita IVA, di persone che mettono su il bar, questa è la realtà italiana vera, diciamo così, e che non è più fatta di 3-4 grandi famiglie che gestiscono grandissime fabbriche, perché queste fabbriche poi tra l'altro sono multinazionali, non sono più italiane, tutte le storie che sapete. Chiaramente significherebbe dire che, per esempio, che senso ha un sindacato che accentra su di sé tutta la, diciamo così, tutti i servizi con i patronati, che preleva automaticamente dallo stipendio delle persone il proprio contributo, che ha un ruolo quindi di grande concertazione, e che senso ha un governo centrale se poi questo tipo di realtà produttiva è così dispiegata e si fonda sul rapporto con i territori, per cui ha più senso parlare di federalismo, per esempio. Ovviamente tutti questi aspetti qui sono aspetti culturalmente avversi alla sinistra, ma anche, devo dire, alla destra, perché non dimentichiamoci che l'evasione fiscale di cui parliamo sta alla base di un modo di gestire la cosa pubblica che è ben più antico di quello, diciamo così, di questi anni. L'evasione fiscale è stata tollerata sia per obiettivi di consenso elettorale e sia perché si riteneva che fosse funzionale a una maggiore crescita economica. Cioè non è che l'evasione fiscale nasce oggi, chiaramente oggi vengono fatte queste campagne terroristiche a livello mediatico e tra l'altro che hanno come oggetto appunto non l'oggetto stesso della cosa, ma mettere in campo dinamiche fuorvianti, no? I lavoratori autonomi sono tutti evasori o cose del genere, ma sono fatte queste campagne perché ci sono obiettivi di bilancio pubblico che hanno reso necessario il recupero rispetto a un modello di gestione che prima invece appunto vedeva nell'evasione fiscale tollerata un modo anche di gestire la governance. Allora, lo so, però io devo dire la verità, io rimarrò convinto che la maniera coattiva di fare recupero di evasione per rispettare i saldi di bilancio, e ne vediamo i segni, perché in realtà nell'ultimo anno e mezzo c'è stata una recrudescenza assoluta, noi siamo letteralmente coperti qui di lettere di manager di imprese che ci testimoniano come oramai la maniera di fare le visite fiscali da parte dell'Agenzia di Entrate e della Guardia di Finanza dichiari il primo giorno dei 30 previsti dalla legge, ma che diventeranno sempre più di 30 come è noto per le visite fiscali nelle imprese, si dichiari la specie il primo o secondo giorno l'obiettivo di budget, che è l'obiettivo della visita a prescindere dalla ricognizione sui libri. Dopodiché si dice: voi dateci un paio di risorse della vostra gestione amministrativa a disposizione per tutto il tempo che staremo qua, se nel frattempo inizierete a trattare sulla cifra che abbiamo detto all'inizio, beh, vedremo quello che potremo fare per non darvi di peggio. Questa è una maniera che secondo me ha a che vedere con il terrorismo, perché a me sembra che avere dei budget territoriali preassegnati da parte della finanza e dell'Agenzia delle Entrate, di cui a quel punto i verificatori fiscali devono reperirli e magari se li superano poi fanno anche migliori carriere e assegnazione di sede, mi sembra che sia una maniera attraverso cui nemmeno il peggior stato inquisitorio realizza i suoi obiettivi. Non mi interessa se recupero dei saldi di bilancia pubblica, credo che sia una maniera in cui per chi la accetta, e di solito tutti l'accettano perché il tuo consulente fiscale ti dice all'impresa: ma sì, dai, accogli la cifra che ti hanno fatto il primo giorno senza guardare i libri, perché sennò poi è peggio, si entra in contenzioso, chissà cosa succede, anche solo per la sua desiderio ci rompono le scatole e così via. Questa è una maniera di accettare di farsi trattare da sudditi, e non è vero, ripeto, che si tratti di rispettare così meglio il deficit italiano. Quindi io mi auguro, e concludo ringraziando i nostri ospiti e ringraziando anche gli ascoltatori a cui ho dato poco spazio notizie oggi, perché abbiamo dovuto dedicare anche all'inizio le nostre scuse per il caso Interlici Gela e ci voglio tornare sopra in conclusione. Io ritengo che adesso, dopo queste elezioni, o il centrodestra al governo è capace davvero di tornare all'aliquota di convergenza unica 23% che aveva indicato per tutti sotto i 100.000 euro, aliquota di convergenza anche per i redditi ricavati da impieghi finanziari, e al 33 solo perché è sopra i 100.000, perché questa è la legge di delega fiscale approvata dal centrodestra anni fa, oppure io credo che continueremo a raccontarci palle, e sia la destra o la sinistra a governare, io continuerò a dire che sono palle. Questa è la mia opinione un po' combattiva, e in base a questo io vi auguro una buona Pasqua, dandovi appuntamento per il lunedì invece successivo. Radio 24, la passione si sente.